Questa tavola coi vecchi ho fattio Osservate, leggete con me Osservate, leggete con me In Italia 640 In Lamagna 281 100 in Francia, in Turchia 91 Ma Cameriere cittadine, poi contesse baronesse, marchesane principesse, i bambini, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, in Italia 640, in Lavagna 231, Entro in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, in Spagna, sono già 1003, 1003, 1003. Voi sapete Ah, che bel vino! magre, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, oh, bravo figo, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la. Ah, oh, un altissimo per verità, bravo! La la la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'anno più giorno, sempre intorno a vincere sta, mille cucaglie per un barbiere, vita più nobile ma non si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancetti, forbici, a mio comando, brutto pista. Rasori e pettini, lancetti, forbici, a mio comando, brutto pista. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donna. Col cavaliere, con la donnetta, tra la la lera, col cavaliere, tra la la la la la la la la la la la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi chiedono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi chiedono, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che palla, una bella volta, per carità, per carità, per carità, una bella volta, una bella volta, una bella volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro! Son qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come di fulmini, sono per conto della città, della città, della città, della città, della città. Avrò figaro, bravo, bravissimo, avrò figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Abbi fortuna, abbi fortuna, abbi fortuna, non terrà. Sono il fantasma della città, sono il fantasma della città, della città, della città, della città. Prenez le bord de Séville, Oh, viva di Massanilla, bin ich ja stets lustig, hey, sau, sassa, ich wurde Sänger, bin bekannt, bei Altertum im ganzen Land. Sei's mit dem Laden umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißa, hauptsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für mich. Da sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die Mädchen mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Thank you. Rideva Я люблю. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。